Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ha chiesto la parola il ministro dei rapporti con il Parlamento, professor Giarda. Colleghi, questo è un'offesa al Parlamento. Non è una protesta arena. In Senato protestano i leghisti nell'aula non appena il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda deve prendere la parola per annunciare la fiducia sulla manovra. Dai banchi del Carroccio li sentite chiarissimi, continuati i fischi. Il presidente del Senato Schifani li richiama all'ordine affermando che è una scena che fa scempio al Parlamento, e la risposta dei leghisti è tutt'altro che contriti. Qui manca democrazia, non c'è democrazia nei nostri confronti. Insomma, cari ascoltatori di Radio 24, ancora un saluto, benvenuti all'appuntamento con Punti a Capo e naturalmente tanti cari auguri da parte mia, da parte nostra, da Filippo Aureggi in regia, da tutta Radio 24 in questa vigilia di Natale. Ma come di consueto noi qui cerchiamo di fare il punto di quello che è stata la settimana e dunque partiamo inevitabilmente dal decreto. Giovedì, insomma, il decreto Salva Italia è stato approvato in via definitiva. Così si chiude un primo cantiere, se ne apre immediatamente un altro cantiere che vede il lavoro ancora una volta e più ancora di quanto non sia accaduto nel corso del 2011 come la grande preoccupazione degli italiani per questo 2012 che ormai si intravede all'orizzonte. Sull'articolo 18 c'è stata polemica per tutta la settimana. Ci annunciano che arriverà la riforma del lavoro, in realtà annunciano licenziamenti facili. Così il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, dal palco del presidio a Montecitorio di CGIL, CISL, UIL e UGL contro la manovra. E nella stessa giornata di giovedì il ministro del lavoro Elsa Fornero è ospite di Porta a Porta, cerca di spazzare il campo, dice vogliamo lasciarlo stare questo articolo 18, io sono pronta a dire che neanche lo conosco, che non l'ho mai visto. C'è così tanto da fare, dice il ministro sul mercato del lavoro prima di arrivare lì, che era soltanto un inciso e che arriva per ultimo nelle mie preoccupazioni. Ma sentiamo il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. L'ingenuità non è mai un attenuante nella vita pubblica, non lo è per i politici e nemmeno per i tecnici. Ora non c'è dubbio che il ministro Elsa Fornero abbia delle idee ottime e condivisibili sul mercato del lavoro, sulle riforme che lo renderanno più flessibile e moderno, ma deve imparare a esporle in modo tale da non provocare un terremoto nel governo mettendo in difficoltà il Presidente del Consiglio. E quando commette un errore di comunicazione, per esempio sull'articolo 18, che certo non è un totem o un tabù, che tuttavia è materia molto spinosa e delicata, che va trattata con grande sensibilità politica, quando commette, dicevamo, un errore di comunicazione, è bene che non corra a rifugiarsi nel vecchio e trito argomento di qualsiasi cattivo politico che si lamenta dei giornalisti e accusa di averlo frainteso o di avergli teso chissà quale trappola. La professoressa Fornero ha fatto esattamente questo, segno che dovrà imparare in fretta a muoversi lungo gli stretti sentieri dei negoziati politico-sindacali. Ora non è più solo un'esperta, è un ministro, occupa il centro della scena e le sue parole hanno un peso anche mediatico. È bene che non lo dimentichi più. E questo, come detto, era Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Noi tra pochissimo ripartiamo dalla cronaca politica. Prima però vorrei condividere con voi una buona notizia, forse una delle migliori della settimana. La notizia è questa: Simone Farina sarà chiamato in nazionale da Cesare Prandelli. Questo è il premio per la sua denuncia del tentativo di Convin. Il presidente del Gubbio, Marco Fioriti, dice da parte sua: non vorrei che si esaltasse troppo il gesto del mio giocatore che ha denunciato di essere stato avvicinato appunto per un tentativo di corruzione. Spiega, il suo è stato un comportamento che dovrebbe essere normale nel mondo dello sport. Appunto, presidente, dovrebbe essere normale. E per un CT della nazionale lo ricordate, che già il 12 novembre scorso ha portato gli azzurri ad allenarsi in Calabria su un campo sequestrato all'Andrangheta. Ecco, probabilmente lui sicuramente è uno di quelli che pensa che dovrebbe essere normale, ma poiché non lo è, grazie a Cesare Prandelli, noi ripartiamo dunque da giovedì 22 dicembre in serata in Senato, approvazione definitiva del decreto Salva Italia. Mi pare di capire che il decreto legge è definitivamente approvato e ne sono lieto. Fedele alla sua tradizionale compostezza, il presidente del Consiglio Mario Monti commenta così a caldo il via libera del Senato al decreto Salva Italia. In aula poco prima il Premier aveva ricordato l'importanza della manovra per il futuro del Paese. Un decreto di estrema urgenza che mette in grado l'Italia di affrontare a testa alta la gravissima crisi europea. Monti contesta quindi l'interpretazione secondo cui le misure anticrisi colpiscono chi già paga le tasse salvando gli altri. L'aumento delle imposte, purtroppo necessario, è stato immaginato in modo da gravare meno sui fattori della produzione e più sulle componenti del patrimonio e della ricchezza. Non c'è crescita senza disciplina finanziaria, ricorda il Premier, che mostra sicurezza poi sulla tenuta della nostra economia, sulla capacità di far fronte al debito pubblico, quindi il suo appello agli italiani. È essenziale che gli italiani sottoscrivano BOT e BTP. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Il Presidente del Consiglio guarda al prossimo futuro, parla di fase 2 che di fatto spiega è già iniziata, assicura di non voler procedere sul tema del mercato del lavoro scavalcando le parti sociali. Il tema del mercato del lavoro richiede per sua natura un maggiore dialogo con le parti sociali. Infine un riferimento alle fibrillazioni che provengono dai partiti che lo sostengono. L'appoggio che sto ricevendo, dice Monti con un filo di ironia, è molto più grande di quello che i partiti a volte dichiarano. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Già, quanto è tattica, pretattica, comunicazione politica con gli elettori, quanto reale dissenso rispetto appunto alla prima parte di questo pacchetto di iniziative, quindi la manovra, il decreto Salva Italia nello specifico, ma come l'abbiamo detto subito in partenza questa mattina, sono molti i capitoli che andranno affrontati, come quello della crescita, ora che diventa prioritaria, come quella dell'occupazione, come quella dell'innovazione e degli investimenti. Ma su questo il commento di Dino Pesole. Il primo tempo della cura Monti è per gran parte dedicato al rigore, una manovra che opera una correzione dei conti per 21 miliardi nel 2012 e altrettanti nel 2013. Se si considera però l'effetto accumulato con le altre due manovre di luglio e agosto, si arriva a quota 76 miliardi. Rigore necessario per stabilizzare i conti e rassicurare i mercati, ma ora è tempo di guardare avanti e voltare pagina. Nel 2012 sarà recessione e allora, per evitare che l'economia si avviti in una spirale pericolosa fatta di manovre che si rincorrono con effetti ulteriormente depressivi, occorre passare in fretta alla fase 2. Crescita, ecco l'imperativo categorico del 2012, il che vuol dire liberalizzazioni, che vuol dire spinta ai consumi, sostegno agli investimenti e all'occupazione. Solo così usciremo veramente dalla crisi. E questo era Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Questa per Radio 24 è stata anche la settimana di un duplice Radio Day, uno speciale sulla crisi che ci ha permesso di condividere anche con gli ascoltatori i sentimenti, le complessità di questi tempi, ma anche di fare veramente il punto sulla situazione preparandoci al 2012. Allora sentiamo su questa iniziativa il direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Il primo Radio 24 Day speciale sulla crisi, trasmesso ieri, ha permesso di andare oltre l'informazione che ogni giorno cerchiamo di fornire a voi ascoltatori. Lo abbiamo fatto perché ne sentiamo la necessità, spinti dalle telefonate, dai messaggi di posta elettronica e dagli sms che ci inviate da qualche tempo. Ognuno di noi, in questi mesi difficili, cerca di capire quali sono le ragioni della situazione che si è creata e quali le prospettive di uscita. uscita. Gli attacchi speculativi contro l'euro continueranno? I principali paesi europei riusciranno a rispondere in modo adeguato? E qual è il vero ruolo che stanno giocando gli Stati Uniti? Domande di peso e risposte interessanti, a partire dall'intervento di Ettore Gotti Tedeschi, il presidente dello IOR, la Banca del Vaticano, intervistato da Oscar Giannino e Alessandro Milan. E noi ripartiamo proprio da Gotti Tedeschi, l'intervista a cui accennava il direttore di Radio 24 Fabio Tamburini, ne sentiamo un passaggio. Quando noi scopriamo che l'Italia negli ultimi 3 anni è stata in Europa il paese che più ha ridotto il deficit, mi sembra del 4.4%, vado a memoria, la Germania l'ha ridotto meno dell'Italia. Altri paesi l'hanno aumentato. Eppure il rapporto debito-PIL in Italia è passato negli ultimi 3 anni dal 103% al 120%, 119%. Questo perché? Perché è aumentato il debito? No, perché è diminuito il PIL. Allora, noi dobbiamo utilizzare le nostre risorse per sostenere la crescita del PIL. Che cosa dobbiamo ragionare? In termini di quali sono i vantaggi competitivi che ha l'Italia. L'Italia ha 2 grandissimi vantaggi competitivi. Abbiamo un vantaggio di una ricchezza delle famiglie molto alto e abbiamo un altro vantaggio, che l'economia italiana è in mano alle piccole e medie imprese. Questi sono i 2 veri vantaggi competitivi. Se noi facessimo confluire le risorse per sostenere la crescita, piani aggressivi e soluzioni di carattere tecnologico, di investimento, di crescita all'estero delle nostre piccole e medie imprese, noi potremmo avere e fare veramente un miracolo di crescita straordinaria. Le parole della crisi da conoscere in radio e naturalmente via podcast. Allora vi ricordo subito radio24.it, trovate la pagina dedicata a questa iniziativa, trovate appunto gli approfondimenti di cui condividiamo ancora un contributo. Uno di questi acronimi frequenti di questi tempi è IFSF, ci spiega tutto Valentina Furlanetto. Radio Day speciale crisi. IFSF, il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, non è altro che un paracadute, un fondo europeo di sicurezza creato nel maggio 2010 tra i paesi dell'Eurozona, che può emettere obbligazioni per finanziare gli stati in difficoltà. Le quote del capitale del fondo, in pratica il paracadute, sono individuate in maniera proporzionale a quelle detenute dai paesi di Eurolandia nella BCE. In conseguenza di ciò, la maggior partecipazione è quella della Germania, che detiene il 27%. Poi viene la Francia con il 20% e infine l'Italia, che ha poco più del 17%. Pochi giorni fa l'amministratore delegato del Fondo Salva Stati, Klaus Rengling, ha detto che l'Europa e gli organismi internazionali hanno ancora risorse anticrisi ben superiori alle necessità di finanziamento di Italia e Spagna per il 2012. Recentemente la dote di cui dispone il fondo, ossia il suo paracadute, è stato ampliato a 440 miliardi dall'Eurogruppo, di cui 44 usati per Irlanda e Portogallo e 100 destinati alla Grecia. E può arrivare con la leva a 600 miliardi e con le risorse di FMI, BCE e Stati nazionali a 1000 miliardi. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di tagli, di manovre, abbiamo parlato, sentito anche parlare di crescita e naturalmente si rinnova il tema sempreverde della competitività con Fabrizio Guelpa, Ufficio Studi Intesa San Paolo. Questa settimana abbiamo parlato del ruolo chiave dell'innovazione. Negli ultimi anni le nostre imprese hanno investito molto, il tasso di innovazione è aumentato, la ricerca e sviluppo è aumentato, sono aumentati i brevetti, è aumentato anche il contenuto qualitativo, quindi ci sono delle buone ragioni che giustificano queste performance, sono tra l'altro un po' in rallentamento con la congiuntura che si sta raffreddando, un anno fa il ritmo di crescita dell'esport era prossimo al 20%, quindi questo 8.2 va anche visto in questo contesto, il problema è che continuiamo a avere un'industria polarizzata con risultati buoni che sono dati da imprese eccellenti e ci sono ancora molte imprese che sono arretrate, che sono un po' da zavorra a risultati complessivi, quindi siamo un paese che cresce relativamente poco, non perché siamo tutti poco competitivi, ma perché solo una parte è competitiva. 489 miliardi di euro di finanziamenti a tre anni ad un tasso dell'1%. Questa è l'iniziativa assunta questa settimana dalla BCE. Allora sentiamo i dettagli nel servizio. La Banca Centrale Europea inonda di liquidità il sistema bancario, ma non convince i mercati finanziari che la crisi che attanaglia l'area dell'euro da oltre un anno e mezzo sia avviata a soluzione. Oltre 500 banche hanno ottenuto dalla BCE 489 miliardi di euro di finanziamenti a tre anni, una cifra record, a un tasso di interesse dell'1%. Le banche italiane hanno chiesto all'Istituto di Francoforte una cifra vicina a 50 miliardi di euro. L'intenzione della Banca Centrale, come ha dichiarato il suo presidente Mario Draghi, è che questi fondi vengano utilizzati per fare credito all'economia in una fase in cui le banche hanno grandi difficoltà a raccogliere risorse e c'è il rischio di una stretta creditizia che aggravi la recessione dell'economia. Si tratta ora di vedere se i nuovi fondi serviranno effettivamente per estendere nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie, oppure se le banche europee si limiteranno a ripagare i propri debiti in scadenza che nel solo 2012 ammontano a oltre 700 miliardi di euro. La crisi comunque resta aperta, come dimostra la reazione negativa dei mercati con il ribasso dell'euro e l'aumento degli spread dopo una breve fase di euforia subito dopo l'annuncio dei risultati dell'asta. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Denaro in arrivo, denaro da recuperare per contribuire al rilancio del paese. Come sapete, noi lavoriamo ormai da mesi sul tema dell'evasione fiscale. In particolare Valentina Furlanetto ha raccolto una ricca ormai collezione di testimonianze su questo tema e la trovate tra l'altro appunto in formato digitale e ascoltabile e riascoltabile sul nostro sito internet. Mercoledì 20, ancora il tema dell'evasione, il tema della fiscalità, insomma, della fiscalità corretta. Oscar Giannino ne ha parlato con Piero Grasso. Abbiamo avuto un paese che ha fatto degli sgravi fiscali la propria politica anche elettorale per ottenere consenso. La mancanza di ICI alla prima casa è un fatto unico in Italia. Tutto il mondo tassa innanzitutto la prima casa. Il fatto di averne fatto una bandiera autorizza il fatto di fare continui condoni fiscali, il fatto di avere uno scudo fiscale con delle percentuali risibili di pagamento per far ritornare i capitali, mentre tutti gli altri paesi hanno fatto ben altre manovre. Tutto questo autorizza all'agire dei furbetti che finora ha caratterizzato l'Italia. Chi può evadere, evade, cioè questo è il problema, è un problema di subcultura, non vorrei definirlo una cultura, ma la subcultura che chi può frega. Allora, se noi non invertiamo questo concetto, è difficile, perché la giustificazione finora qual è stata? Io mi rendo conto che i soldi che do allo Stato sono impiegati male. E quindi un'autogiustificazione, me li conservo. E lo Stato me ne chiede anche tanti. D'accordo, ma ne chiede anche tanti perché ne ha da meno persone rispetto. Se un terzo dell'economia non contribuisce, è chiaro che ne deve chiedere tanti per arrivare a bilancio. Il bilancio è qualcosa che deve pareggiare, o no? O no? Si chiede retoricamente Piero Grasso, magistrato, procuratore antimafia dal 2005. Punto e a capo. Il y a eu historiquement un génocide arménien. C'è stato storicamente un genocidio armeno. Così parla il ministro Leonetti. Leonetti è titolare del Ministero per gli Affari Europei. A lui è toccato difendere in prima battuta pubblicamente il voto con cui l'Assemblea Nazionale ha approvato giovedì un progetto di legge contro il negazionismo dei genocidi e lo sanziona con un anno di carcere e 45.000 euro di multa. Un disegno di legge che ha suscitato polemiche interne e soprattutto esterne, infatti animato una vera e propria guerra delle parole tra Turchia e Francia, anzi in realtà dalla Turchia alla Francia. Il premier Recep Erdogan. È intervenuto ieri attraverso la televisione Al Arabiya, ha detto sostanzialmente che Sarkozy ha fatto una scelta elettorale cercando in questo modo di assicurarsi i voti di 500.000 armeni di Francia. Insomma, guerra fredda di parole in queste ore, sicuramente uno dei temi su cui torneremo nelle prossime settimane. E invece è sangue quello che cola in Iraq. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato l'ultimo giorno dell'esercito americano. Alberto Negri ci aggiorna sulla situazione. Le vittime, a dozzine, avvolte in un lenzuolo bianco adagiato sull'asfalto. Queste sono le immagini che provengono dall'Iraq dopo il ritiro americano. Quando l'ultimo convoglio di blindati non era ancora arrivato in Kuwait, già a Baghdad esplodevano le tensioni tra sciiti e sunniti. Un mandato di arresto con l'accusa di terrorismo veniva spiccato contro Tareq al-Hashimi, il vicepresidente sunnita, e il primo ministro sciita, al-Maliki, chiedeva un voto di sfiducia contro Saleh al-Mutlaq, il suo vice sunnita. La maggioranza sciita, che domina governo e istituzioni, litiga ferocemente con i sunniti. I curdi a nord litigano con tutti gli altri per rafforzare un'autonomia che somiglia molto all'indipendenza. Sullo sfondo c'è una sanguinosa lotta settaria per la spartizione delle ricchezze petrolifere del territorio, e tutte le altre minoranze musulmane, come i cristiani, ne fanno le spese. Questo Iraq, fragile, esposto alla frammentazione, sta diventando anche il campo di battaglia delle influenze regionali. L'Iran sostiene gli sciiti, l'Arabia Saudita i sunniti, e tutto questo mentre ai suoi confini la Siria sta esplodendo. Il nuovo Iraq è un paese vulnerabile, una costruzione precaria che rischia di crollare di fronte agli americani schierati adesso in Kuwait. Alberto Negri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Violenze ormai da mesi anche in Siria. Ieri, proprio nel giorno dell'arrivo dei primi osservatori arabi a Damasco, è stato anche il giorno di un attentato kamikaze. Sentiamo. Oggi a Damasco arriverà la prima squadra di osservatori arabi che avranno il compito di verificare l'applicazione del piano della Lega Araba per la fine delle violenze. Da una misura del compito che li aspetta, sapere che la missione è guidata dal generale sudanese Mohamed al-Dabi, già coordinatore tra il governo di Khartoum e le forze internazionali nel conflitto del Darfur. Intanto la città di Idlib, nord-ovest del paese, è stata completamente distrutta, racconta un ufficiale dell'esercito siriano alla CNN. Mentre nella vicina Jabal al-Zawiya, i jet governativi, racconta ancora l'ufficiale, hanno bombardato una moschea dove 100 civili pregavano o si erano rifugiati. Ma nonostante la pressione, le centinaia di vittime, si parla di 250 da lunedì, la protesta continua a propagarsi e lambisce ormai la capitale. Il Consiglio Nazionale Siriano, principale raggruppamento dell'opposizione, si è appellato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU affinché affronti al più presto la questione. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sarà un Natale probabilmente in mare, ma in libertà per l'equipaggio della petroliera Savina Caylin. L'equipaggio infatti è stato liberato mercoledì dai pirati somali dopo 10 mesi di prigionia. Le fonti somale parlano di un riscatto di 11 milioni di dollari, quelle italiane negano, ma di sicuro per l'equipaggio c'è finalmente la libertà ritrovata dopo veramente 10 mesi pesanti, molto duri di prigionia in condizioni di estremo disagio. La nave è stata raggiunta già 24 ore fa di fatto dall'unità grecale della Marina italiana, rifornita di carburante perché potesse riprendere il viaggio interrotto nel febbraio del 2011. Ed è l'impasse del congresso sull'estensione degli sgravi fiscali la buona notizia, o meglio la fine dell'impasse in congresso, il regalo di Natale per il contribuente americano. Il presidente americano Barack Obama tira un sospiro di sollievo, non sarà costretto a scegliere se trascorrere o meno le proprie vacanze con la famiglia. Infatti, in caso di mancato accordo, Obama si sarebbe trovato in una situazione imbarazzante, insomma andare alle Hawaii dove già si trova la famiglia ed essere sommerso dalle critiche, oppure rimanere di fatto inutilmente per sbrogliare un problema che comunque sarebbe stato rimandato al dopo feste. Ma sentiamo invece l'esito positivo di questo regalo natalizio per 160 milioni di americani da Mario Platero in un passaggio di America 24. The fight is over. This evening, Speaker John Boehner, bruised politically all week by the stalemate, announced a deal. We will ask the House and Senate to approve this agreement by unanimous consent before Christmas. I politici americani non potevano permettersi di andare in vacanza senza regalare agli americani l'accordo per prolungare di 2 mesi il taglio sulle ritenute per spese sociali in busta paga. Il Senato si era messo d'accordo con una maggioranza schiacciante di 89 voti a 10, una maggioranza inusuale, bipartitica, per poter fare questo regalo a 160 milioni di americani. Alla Camera i Tea Parties si sono messi di traverso. Ecco, devo dire, questa volta gli è andata male, perché hanno dimostrato di non avere quella che poi deve essere un minimo di sensibilità politica. Alla fine, dopo un paio di chiamate del presidente, dopo un paio di telefonate dei senatori repubblicani infuriati, anche i tipartisti più irriducibili hanno ceduto. L'accordo è arrivato in tarda serata, il voto giusto in tempo per poter confezionare un bel regalino, appunto, per 160 milioni di americani che avranno, almeno per i primi 2 mesi, ma poi sono sicuro che si metteranno d'accordo anche per il resto dell'anno, una quota parte di quei $1,500 all'anno che avrebbero ottenuto grazie appunto a questa riduzione sulle trattenute sociali in busta paga. 7 giorni dopo la morte del caro leader Kim Jong-il, la Corea del Nord annuncia che consentirà l'ingresso sul suo territorio alle delegazioni sudcoreane che intendono esprimere le loro condoglianze per la morte appunto del leader comunista. Numerose persone in Corea del Sud chiedono di venire a presentare le condoglianze, spiega il governo di Pyongyang sul suo sito internet. Che si tratti di un segnale di disgelo, prematuro dirlo, per scoprirlo ci toccherà attendere. Punto e a capo. E torniamo in Italia. I dati preliminari di una rivelazione Cermes Bocconi mostrano che la spesa per i regali si è ridotta dell'8,1% rispetto al Natale del 2010. Quest'anno il dono funzionale domina largamente la scena, spiega Andrea Ordanini, che ha coordinato la ricerca, ed è preferito a quello divertente nell'83% dei casi. Insomma, questo non è un Natale che lasci spazio al regalino sciocco o inutile, almeno per la grande maggior parte degli italiani, per la grande maggioranza degli italiani. Ecco, a proposito di regali, Enrico Bagliarini questa settimana ci ha anche raccontato di come uno dei settori che continua ad avere un ruolo centrale è quello dell'elettronica. Qui però, in questo servizio, ci spiega che acquistare molti regali, diciamo, elettronici non fa di noi un paese high tech. Favorita soprattutto dai giovani, la diffusione di computer e internet cresce anche in Italia, ma l'ultimo rapporto elaborato dall'Istat conferma il vero problema del nostro paese. Solo 62 famiglie su 100 hanno accesso ad internet, contro una penetrazione della rete che raggiunge il 94% in Olanda, il paese numero uno in Europa, l'85% in Gran Bretagna, l'83% della Germania e il 76% in Francia. Siamo lontani anche dalla media europea, che è al 73%, e facciamo meglio solo di Portogallo, Cipro, Grecia, Romania e Bulgaria. Insomma, c'è da vergognarsi. Certo, nelle famiglie con almeno un minorenne questi numeri sono più incoraggianti, ma oltre al nodo della diffusione della rete fisica, cioè la riduzione del digital divide, c'è appunto un problema di cultura digitale, di comprensione cioè dei cittadini, ma anche delle aziende e della politica, di quanti e quali vantaggi possono fornire le nuove tecnologie a partire da internet. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre milioni di persone festeggiano la natività, c'è invece chi ha scelto di lucrarci. Le coppie erano molto variegate, composte da insegnanti, avvocati, casalinghe, gelatai, broker, dipendenti pubblici, ma tutte accomunate da una cosa: il terrore di perdere l'ultima occasione per coronare il sogno insopprimibile di avere un figlio. E lui ne approfittava. Lui è Carlo Cetera, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pieve di Cadore, vicino Belluno, il quale, facendo appunto leva sulla fragilità delle coppie in cerca di una gravidanza attraverso la procreazione assistita, chiedeva loro tangenti per poter saltare le liste d'attesa pubbliche, normalmente pari a 2 anni. Tangenti che arrivavano sino a 2.500 euro per ogni tentativo di fecondazione. Il primario, 62 anni, si premurava di incassare il denaro personalmente, fissando incontri con i pazienti nei luoghi più disparati: bar, stazioni, gelaterie, caselle autostradali, parcheggi. Sino a che una coppia, delusa le proprie aspettative di fertilità e sfibrata, ha sporto denuncia. E così l'uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Le coppie che hanno confermato ai finanzieri di aver accettato di pagare sono 6, ma molte altre sono quelle che devono ancora testimoniare. Il medico arrestato dovrà rispondere di concussione aggravata e continuata, nonché di interruzione di pubblico servizio. E si riapre, almeno brevemente, il dibattito sulle lungaggini delle liste d'attesa e sul cosiddetto turismo della provetta per aggirare le limitazioni imposte dalla legge 40. Roberta Giordano, Radio 24, Sole 24 Ore. Il graffio di Dario Ceccarelli. Ecco, dopo questa storia edificante della nostra Roberta Giordano, arriva il graffio di Natale, arriva qui appunto a capo il nostro consueto appuntamento curato da Dario Ceccarelli, che spiega, lo potete trovare, tra l'altro c'è veramente una ricca collezione sul sito. Il graffio serve a farsi male poco alla volta e a resistere meglio ai piccoli grandi misfatti dei nostri tempi. Allora sentiamo l'ultimo in ordine di tempo. Buone notizie per il Milan e la nazionale. Cassano ha di nuovo aggredito un giornalista. Allora ormai è guarito. Punto e a capo. Eccoci qua per questi ultimi minuti di Punto a Capo. Questa puntata è iniziata con un nome, quello di Simone Farina. Vi ho detto che era una buona notizia, è una buona notizia che questo ragazzo, questo giocatore, che in qualche modo dimostra in tutta semplicità che non è obbligatorio farsi comperare per raggiungere la nazionale, e il CT in questo è stato davvero brillante. Ma insomma, il difensore del Gubbio, dalla cui denuncia è partita la nuova inchiesta, ora ovviamente, come dire, cerca discrezione, si scusa, dice parlerò più avanti. Chi invece non aspetta per parlare è ovviamente il nostro Carlo Genta. Sentiamo il suo commento. Sollievo o angoscia, decidete voi. Il fatto è che gli interrogatori di garanzia, almeno stando ai muri con le orecchie delle stanze di Cremona, sembrano confermare tutto. Tutto vero. C'è in giro gente che inquina il calcio, seminando denaro e raccogliendo spazzatura d'oro di partite truccate. Ieri hanno cantato Alessandro Zamperini, che ha ammesso di aver cercato di combinare Cesena Gubbio di Coppa Italia del 30 novembre, ricevendo la benedetta porta in faccia da Simone Farina, difensore degli Umbri, non un eroe ma un uomo per bene. Ha cantato per 2 ore Filippo Carobbio, che avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nelle 5 partite citate nell'istanza di carcerazione e avrebbe anche parlato di altro. Tutti gli arrestati rimangono in isolamento, pare che Cristiano Doni sia tranquillo e si sia dato alle letture pescando libri nella biblioteca del carcere. Meno tranquilla è l'Atalanta, col presidente Percassi che chiede ai tifosi di stringersi alla squadra in un appello che sa di paura, mentre Giancarlo Abete dice che è presto per capire se ci saranno condanne a campionato in corso. Insomma, sarà un Natale di fiere per molti, colpevoli e non. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Punto e a capo. Grazie a Carlo Genta, ed ecco, l'ho annunciato ampiamente, la questione dei cinepanettoni. Forse l'avrete letto, noi ne abbiamo parlato settimana scorsa con Marta Cagnola, ci ha fatto un po' il punto su quelli che sarebbero stati i candidati di questi giorni appunto nelle sale cinematografiche. Poi arriva un titolo a metà settimana: cinepanettoni flop. Allora Marta, grazie di essere qui. Allora, è flop o non è flop? Che succede con questi cinepanettoni? Io voglio dirti che è flop, ma lo era già l'anno scorso. Io sono un po' arrabbiata con questi titoli che fanno capire che forse l'anno scorso non tutti avevano visto chiara la situazione. Cioè, sei arrabbiata con i giornalisti? Sono arrabbiata con i giornalisti, sì, ogni tanto, perché il calo dei cinepanettoni era già chiaro l'anno scorso. E infatti, beh, insomma, siamo sempre ancora un po' in tema calcistico, perché c'entra sempre il Napoli con De Laurentiis, che adesso ha dichiarato che il suo vacanze di Natale a Cortina Cina sta un po' recuperando terreno, ma il botteghino dello scorso fine settimana dice così: Sherlock Holmes 3.566.000 rotti euro, Il gatto con gli stivali 2.300.000 e un testa a testa tra Finalmente la felicità, terzo posto, Pieraccioni 1.700.000, Vacanze di Natale a Cortina 1.674.000. De Laurentiis aveva provato a recuperare un po' terreno rispetto all'anno scorso con due decisioni: uno, non fare più Natali esotici, l'anno scorso era stato il Sudafrica, quindi spendendo anche meno a Cortina, tornando all'origine delle vacanze di Natale, prendendo la sceneggiatura dei Vanzina. Ma non è successo come l'anno scorso. Cosa successe l'anno scorso? Che Natale in Sudafrica fu primo al primo fine settimana, 1.422.000 spettatori in due giorni. Cosa succede però? Che noi abbiamo al primo posto uno Sherlock Holmes che nel primo capitolo aveva incassato 20 milioni di euro, quindi insomma un fuoriclasse. L'anno scorso il grande film internazionale era The Tourist, che nei primi due giorni incassò solo 940 mila euro, quindi non aveva mica tanto una concorrenza. Esatto. Qual è la vera variabile? L'anno scorso, alla fine, Natale in Sudafrica non vinse mica il botteghino, perché la sfida venne vinta da Aldo, Giovanni e Giacomo con 7 milioni e mezzo di euro, sorpassando Natale in Sudafrica con 5 milioni di euro. Quindi il flop del cinepanettone era già l'anno scorso. Cos'è successo poi l'anno scorso a spazzare via tutti? Con 40 milioni di euro, film più sbigliettato della storia del cinema italiano, Che bella giornata di Checco Zalone. Questo già dicevamo sei mesi fa, commentando un cambio di gusto del cinema degli spettatori italiani con il professor Gianni Canova. Io lo ascolterei insieme sei mesi fa. Dei film che sono sì per lo più commedie, ma sono lontani dal modello di commedia macista, sessista, omofoba, razzista che era quella dominante ai tempi del cinepanettone. I personaggi di questi film, penso ai personaggi di Checco Zalone, di cui io sono assoluto, incondizionato e non pentito fan e supporter, ma penso anche ai personaggi dei film di Bisio e Siani, sono dei personaggi che entrano dentro gli stereotipi e li rovesciano, mentre per 20 anni l'Italia è un paese che ha riso di personaggi, penso a quelli di Boldi e di De Sica soprattutto, che incarnavano lo stereotipo dell'italiano medio, perennemente uguale a se stesso e incapace di mettersi in discussione in qualunque parte del mondo andasse in vacanza, che fosse in Sudafrica, in India, a Miami o a Cortina, era lo stesso repertorio di rutti, peti ed esibizioni fallocentriche. Quel modello lì mi sembra finito, mi sembra che questi nuovi comici vadano in un'altra direzione e siano seducenti anche per una certa leggerezza che muove il ritmo del loro essere comici e delle loro gag.